Nulla. Costa un microfono, 50 euro se ti fidi. Becca? Capo registrato, Marco. Ah, vediamo, ora. Vediamo. Niente. Poi... al limite, se c'è l'ufficio, stasera lo provi, vediamo un po' come esce. Me lo fai sentire. Sentiamo questo apparecchio. Avanti, Becca. Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Marco. Marco, fagli un pagamento di lazionato a tasso zero, pagamento a Radio Olimpioni che ogni 4 anni. E tu li ritiri l'usato da rotavare. Usato garantito. Ciao Roberto. Usato garantito. Oh Lu, 40 euro, cioè, no, non cambia niente, 40-50 euro, più o meno il prezzo, visto che gli apparati viaggiano intorno ai 70-80, pensate un prezzo così, poi se sono 40 euro non cambia niente, sia per quello che per quell'altro che c'ho di veicolare. Sia per uno che per l'altro, vai Roberto, lasciamo anche il blocco, vediamo se Gianni rientra, altrimenti riprendi tu l'antenna a te. Riprendo io. Cos'era invece con gli altri che mi avevi detto? Uno era un Ruiz, che modello era, Marco? Il 142, Roberto. Guarda che quello era 200 euro con un microfono l'MP5, è nuovo. Apparato è uno spettacolo, fra una cosa e l'altra è costato 250 euro, fra apparato e microfono, è bellissimo con le bande laterali, è un bello grande, un bel bestiame, con Chad, 8-10 manopoloni, bande laterali, controllo di tre strumenti, è veramente un gioiello. Questo invece cos'era? Questo era un Ruiz, l'altro era un... L'altro è un realistic, navajo, però quelli mi ha detto che sono Fran e Claudio, sicuramente. È un realistic navajo con un turner più grande. Tu quello che hai detto siamo? Sì, sempre 200 euro. Allora, sono tutti e due 40 canali, così? No, il realistic è 40 canali più 32. Perciò c'ha il 9, il 10, sopra diciamo, sopra i 40, capito? Kappa, quello invece è lui, si mi ha detto, 40 canali, quante bande c'ha? C'ha due bande laterali, tu cosa c'ha, che strumenti c'ha? Lui c'è bellissimo, veramente, guarda, un base bello, importante. Ha 40 canali, però sai, il tipo di pioniere che monta, permette anche come sicuramente di fare modifiche e portarlo a 120 canali, ma così non ho toccato, è originale. E 40 canali, le bande laterali, ha tre strumenti verdi, molto belli, che rimangono sempre accesi, c'è l'orologio digitale, cos'ha? Praticamente il controllo del ROS, il controllo della modulazione, lo strumento del segnale di ricezione, poi c'è i filtri, l'ANL, il noise blocker, un bel apparato veramente bello, di quelli come Dio comanda, alla grande. Ma capa, no, le modifiche non mi interessa, io sono contrario a fare le modifiche agli apparati. Sicuramente è molto simile a quello che ho io al patch, almeno le funzioni che mi sto dicendo sono simili a quelle del patch. Guarda, mi sa che stasera lo prendo e me lo porto in ufficio, così magari te lo faccio settare, tanto lì ci passo mille volte. Quando sono in macchina non sono lo scarico, te lo faccio vedere. Gaffa. Vai Luca, facci sapere prima di pranzo. Luca deve avere già addentato qualcosa da mangiare. Perché Marco adesso arriva molto forte qua? Sono in via di San Francesco. Ma sei in movimento adesso? Sì, sono in movimento, Robè. Sono in movimento, ma ne approfitto adesso ormai già per salutarti ci sentiamo, magari dopo, va. Nel pomeriggio, tanto vado, me lo prendo così, me lo metto in ufficio. Non lo scarico, così quando sto prendendo lo staffo mi avvicino un attimo, te lo faccio vedere. Va bene, buon pranzo, a più tardi. Ciao ciao, Marco Scotta QRT. Va a trovare il prossimo, ciao ciao. Ciao Marco, ciao, se mi ascolti. Io ti sento, Luca, con la bocca piena, già smorfando sta, eh. Posso il pane, cappa. Comunque ti faccio sapere, Marco, là. Ci mettiamo d'accordo, sempre. Poi bisogna essere un monogatto questo ancora, va buona, va a caricare, va, a più tardi, ciao. Via, ciao ciao, ciao, buon pranzo, ciao. Bello. Ciao. Divisi, vabbè, divisi. Divisi, cosa devi fare? I beni, divisi. Capisco, cos'è dividi? I beni, divisi, ma non mi senti? Beni divisi. Tu hai detto, beh, bello, divisi. Allora, mi dà della luce. Mario, sentito c'è. No, Mario Schumacher, no. Ma lui di Vigido non è che la giornata di luce? No. Quello tu vai che ha ammazzato 40 pecore. Ah, sì, sì. E alla fine l'ha dovuto ammazzare a che distribuire le carabinieri la musica. Vuol dire che erano cani, legati sicuramente, quelli sono cani di veramente, siamo bravi, anche se siamo mai cattivi. Capire di chi eri di punta, che conosciuto quasi tutti alle punte, strano una cosa del genere. Dice che non mi ha piovuto, adesso c'è un pezzo di muro, così qui hanno saltato e hanno aggredito le pecore. Neanche il pastore si poteva avvicinare, perché il pastore lo conosco io, quello che porta le pecore, ma infatti voglio parlarci. Era la Bigliamona al padrono di Rigani, allora. Sono scappati da qualche parte. Cavolo, hanno fatto una strage, giusto? Quanto ne hanno ammazzato? 40? Beh, da quanto è l'agnello al chilo? Adesso rimesso un conto, una belliccia e più danni, danni morali. Allora, il lire, buongiorno, il lire costava 150.000 lire l'una le pecore. Io all'estero un conto, più fai la lana, lì non si considera. Ho 150.000 lire a pecora, a cazzo, prima, quando siamo le lire, adesso non lo so quanto sia, se sia 650 euro. Fai 100 euro, basta, sono 40 e sono 4.000 euro. Adesso ne sei con 10.000 euro, buoni. Ma di denuncia penale si prende adesso, non sai cosa vuol dire, incauta custodia di quegli animali lì, è un bel brutta la studia. È inutile, quegli animali sono aggressivi, c'è poco da fare, è inutile che dicano, va con dire buono, ma al momento fortuna mi salta fuori la libidine, capito? E morsicano. Ma vedete, sentito l'intervista del veterinario, cosa ha detto? No, negativo. Ma il veterinario ha detto, quel tipo di cane, se la pecora fosse rimasta ferma, non le avrebbero fatto niente. Dal momento che scappa la pecora, dice è finita, perché loro vanno, fino a quando non si muove più, non la muove, se la porta la bellire, si fa vedere molto, e così invece rimane fermo, si fa vedere molto, non gli fanno niente, però le pecore sono tonti, scappano, come dicevi loro, una volta che ne hanno preso una, al volo si attaccano pure all'asse. Dies mala. Vuol dire Roberto, la quando hai usi. Ma io dico questo, si attacca magari a qualche bambino, cavolo, poi erano due. Guarda, se prendono un bambino, mi non fa per forza cosa, non gli ho fatto avere l'altro giorno, a uno un amico gli ho fatto avere, c'aveva una macchina in officina, mozzicata da un pastore tedesco, tu devi vedere come ha fatto la lamiera della macchina, se tu non la vedi non ci avresti creduto. Gliel'ha buccata magari. Ma non l'ha bucata, ma l'ha frantumata, ma proprio ci sono i segni dei denti, perché c'era un gatto sopra, e questo è un pastore tedesco. Se fosse un Rottweiler o un coso, un Pitbull, gli avrei attaccato al parafango. Ma i Rottweiler pensavo che fossero più bravi dei Pitbull. Domani, magari più bravi dei Pitbull, ma sono sempre cani ferocci, non sono cani equilibrati. Come poteva essere il Doberman di una volta? Ma Doberman l'hanno fatto diventare cattivo, cioè c'è una fama non proprio così. Doberman come cane iniziale, come natura, non è così cattivo come Rottweiler. Certo, se tu lo addestri, lo leghi, diventa amaro un cane. Ma il Doberman li usavano le gang, eccetera, eccetera. Poi li usavano anche, c'era una ditta di guardie giurate che faceva servizi negli stadi che li usavano. Sì, sì, pressione a fare la difesa, quello si sa perché ti rischi da una guerra nei campi concentrati, ho trovato a fare il Doberman e il Rottweiler. Vabbè, ma quei cani lì io non... Il pastore Cresci è più intelligente, è bravo, fa la guasta come dovrebbe fare, a meno che è intelligente che non deve entrare. È un cane equilibrato il pastore tedesco, cioè è un cane, non dico più intelligente perché non lo puoi valutare, però sicuramente è un cane equilibrato. Lo puoi dimostrare negli agibiti, in queste cose qua, nella difesa, di queste cose qui, che sono, toccate la mano Manuel, che sono cani molto intelligenti, molto molto intelligenti, sapete. Sì, ma poi si adattano a tanti servizi, mentre il Rottweiler non è un non può dare ai bambini a giocare un Rottweiler, lo metti solo per tenere la difesa o la guardia, ma non ho mai sentito dare a un bambino, lasciare un bambino un Rottweiler a giocare, chi si fida? Beh raga, io vi saluto là che sono arrivato, buon pranzo a tutti, buon carica quando lo fate, dai, ciao ciao. Ciao Gianni, ciao. Ciao Gianni, io ho già caricato comunque. Ciao, ciao. Bravo. No, Marco fa cinghietto. Ah, se fa cinghietto, sì. Lui fa cinghietto. Ciao, ciao, già, ho una carica anche a te. Io ho già caricato. Alla prossima. Ebbene, amico Mario, dove sei uscito? Mario, ci sei, batti un colpo. Mi sei da rimanere prendendo un battato. Uscire. Ma ieri notte vi siete sentiti? No, no, io non ho acceso ieri notte. Negativo, ascolto tutto, verso una tannanna. La partita non l'hai vista, ho guardato il Milan ieri, ogni partita che ha fatto. No, no, forse avrò preso sonno alle 9 e mezza, 10. Jesus ha direi 4-1 e si è sbagliato anche il rigore Shevchenko. E vabbè, è passata allora, sì. Già lo grido. Anche il Real Madrid è uscito fuori. Passa Juve! Porca caglia, Marcolino. No, non è Marcolino. Chi era? Una signorina era, mi è sembrata una signorina. Era Manuela, ciao ciao. Ah, ma perché signora era più forte già? Ciao, che Manuela, ciao, a vero. Si prende Luca? No, vagava, adesso vediamo quest'estate come la situazione. Se baracchino, secondo me però non è stacco tutto. Non me la fotti più nulla, tutto non è stacco. Allora, tieniti con l'apparato omologato l'altro, te lo fai in soldi. No, no, no, no. Stacco tutto, poi quando sarà roba ripiazzo tutto. No, no, no, no. Guarda, non volevo staccare anche stamattina, me. Non volevo staccare. Perché sono sempre attaccato, sono sempre in camera, vendi, vendi, saldando, risaldando. Così, no, no. Poi a me mi prende così a fischiettare, fare, spezzare, a me dietro, ehi, ma non ti può buttare così, ma... Guarda, poi mi dietro... Boh, adesso vediamo, vediamo, non so, Che se la droga del baracchino ti senti lì, ma stacci di meno, se ti stufa, ti sa di meno. No, molte volte non è la cosa del baracchino, siccome io l'ho avuto anni fa, robe, ma l'ho usato poco, perché disturbavo. Parlava tappuca, li dintavo, lo zisciva, riprendevo, guarda, era veramente una rottura di scatto, mi buttavo sempre la porta. Adesso mi sto approfittando, ma io non sto disturbando, tutto qua. No, mica l'avrei attaccato, ui. Vabbè, quello per forza, che tu si disturbi, ti crei problemi e basta. Infatti, poi non lo so se vediamo. Vidimmo. Cappa. E poi qua devo fare dei lavoretti, voglio fare un angolino giusto per insomma, non dico se lo metto ai piedi, ma siamo lì. Voglio fare un angolino giusto per il baracchino, se vediamo, il televisore. Vidimmo su, qua c'è da smontare un armadio, faccio la mamma a smontarlo, prima ne prendo uno di quelli in casso. E niente, faccio un bel angolino. Niente, poi si verrà, perché qua sono, secondo me sono in mezzo ai piedi, ma... Caffaga, ma ce l'hai nella stanza dove dorme il baracchino? E allora? No, oh, pensavo ce l'avessi in qualche altra stanza, tu. Allora, tanti anni fa, quando ho iniziato, c'eravamo in cucina e facevo le 4, le 5, le 6 del mattino, ma quando sei a casa, cioè quando sei in camera tua, sei con il cazzo, ti addormenti, roba? E già lo so, è capitato così. che Claudio rimane bugiardo, Franco rimane bugiardo, tu vabbè sei in camera, no? Io sono nella camera del mobile, vabbè, ma sono anche nella trastanza, io con l'ufficio c'ho il Midland, no sì, appunto il Midland e il Pace c'ho nella trastanza, c'ho una sedia. Quando sono qui Franco me ne vado nella camera del mobile e mi traio nel lettino. Non sai cosa roba, che tu hai le prime armi, io l'ho avuto anni fa, perché non so come funziona. No, andiamo proprio a imparare anch'io, però so come funziona la situazione. Tutto qua, vabbè, adesso vediamo. Vi dimmo, la terra la lascio su, adesso il cavo lo piego e sacco tutto. Non mi prendo niente, perché me lo devo vendere, no. Tanto te lo prendi, ti mangi su, di poi cosa ne hai? Nulla. No, lo dico quello, magari questo che ti sta proponendo a coso dovrebbe essere un bel apparato, considerando tutte le funzioni che c'ha, che è un bel apparato. 40 euro sono regalati, cosa compare c'è 40 euro? Ti vendi il tuo 80, 100 euro e ti rimangono anche i soldi. No, sarebbe bello, mi metto sopra i mobili, così. Adesso vediamo, ti dico. È solo che è un casino. Poi devo fare un mobile, però il mobile dello stereo, li volevo mettere lì e poi te lo metto lo stereo. L'altro giorno l'ho smontato, non ci ho ripensato, ma sì, io metto i baracchini qua, lo stereo dopo lo metto, alla fine ho ripiazzato tutto lo stereo e l'ho rimesso davvero. Beh, non è che mi capi lo stereo ma pure il baracchino, no? Luca, eia, come sto dicendo con questo microfono? Bene. Di lusso, Hola. Diluvio. Gianni, Luca. Dimmi. Gianni. Sì. Strana la voce, cacchio, mi mangia un'altra persona, sì. Ma strana la voce. No, perché che sento che è un po' vero questo microfono. Ora, prova. Ma sei a casa? Casa. È una bomba già, una bomba, sembra in macchina. No, sono a casa. Già. Mi sa che sono framondurato. Vabbè, sto usando quello là. Voglia. Sto usando quello là. Ehi. Scappa, una bomba già. Una bomba. Prova a sollevare l'eccolo, sentiamo. Prova. Vai. 1, 2, 3, 4, ola. Sembra in macchina, allucinante. Oh Gianni, parla senza l'ecco. Cosa, Luca? Ma Robert ha parlato. Cappa. Non riesco a capire perché c'è la mamma che stava parlando. No, ho detto già, togliere l'eco, a parlare è naturale. Perché lo devo togliere? Per vedere la differenza con l'altro, voglio fare sentire un confronto. Scoltalo, va. Un passaggio. 1, 2, 3, prova. Questa la voce è più fedele alla realtà di come ti vedo verticale, diciamo, molto più fedele, più nitida è come voce, sembrava diversa da quell'altra, sembra di un'altra persona, figurati. Comunque già, se lo metti leggermente va benissimo, spingi di più come radio. E ma infatti la regolazione c'è questa. Così vuole, andava. Ma l'eco ce l'hai sul microfono o sull'apparato? Microfono. Scappa. Non è lo stesso microfono che utilizzavo in macchina però. Sì. Oh, ma non è che è la base, no? Scappa. Già andava bene, va più che bene già. Hai preso l'ultima radio. Bella veramente, forte. Sembra in macchina. Però con lui spinge di più. Va bene comunque. Non so se è quello. Tu l'hai mai sentito a... a Manolo, come esce? Più o meno lo sei così, dai, la radio così forte. Quindi ho preso una bella parata. No, vabbè, lui già non è già tutte le sue funzioni che ha, se funzionano. E non vedo che funziona, è stato già provato. Le laterali tutto. Cosa? Le bande laterali tutto. E allora, chiedi a Claudio, non mi ha dovuto manco cercare, ma l'ha trovato su. Ma per questi lo già pure? No. Vabbè. Già andava, l'interessante è stare bene il radio, che funzioni, quello che deve funzionare, poi del resto. Già va bene. E come è messo? Bene, nuovo, è chiamante. però adesso vediamo, lo vediamo com'è. E poi se ne parlerà. Infatti detto stasera quando arrivi attacco e lo sentiamo come esce. Vabbè, io vado a mangiare, se ci sono salvatore sono buttato, io l'ho aspettato, ma lo sento. Gappa gappa, ma ti stai ascoltando già, no? Come Lucio? Ti stai ascoltando? Sì. Sì, ma adesso vado alla camera, dai, se devo mangiare, ci ha chiamato già. Ciao. Ciao, Gianni, buona carica. Tu l'hai visto roba il colore del Mobilcom? No, non so neanche come si è fatto, che colore è perché? È un verdurino strano, tipo grigio, sembra grigio verde, ma tipo quello del Midland, con la specie di verdogno, così. All'incirca. Ma perché non te l'avevo fatto nero io? Ah no, del coso, era del Midland, del colore nero che te l'avevo fatto io. Però ha delle chiazze, tipo chiazze bianche, no? Non è già sono si vedo, però se lo metti contro luce si rottano. E dopo lo verniciare. Però restiamo un altro con la bomboletta. No, farlo nero quello, assolutamente. Vabbè, devi trovare un colore simile più o meno a quello originale. Allora dovrebbero essere colori martellati, insomma, che rimangono striati così. Scappa. Così era il summer camp, quello che ho fatto, però me lo sono fatto nero, non me ne ha fatto da quando ho tempo me lo rifaccio. Era quello che avevo io, il summer camp, era addirittura i pannelli di sopra, ecco perché era l'azzurrino metallizzato. Allora, praticamente l'ubico, i fattori sono parenti, vabbè, sempre dalla Intec. No, se taggirisco la giurisprendi. Però il colore è simile. Sono uguali il colore del retratto e il colore del baracchino. Perché il Mobicom della Intec è fatto dalla Intec. Coppa. Non un catalogo della Intec, però non ho mai sentito questo nome, cioè non ho mai visto questo nome. Ma c'è un altro nome nativo oltre a Mobicom. Intec, Mobicom, vabbè, della Intec, MB40, Mobicom, MB40, non c'è da sbagliare. C'ha 5 pomelli e 6 tasti. MB40 si chiama, no, come Mobicom non l'ho mai letto. Già dopo quando c'è un attimo di tempo controllo il catalogo. Cosa c'ha? L'indicatore, il display, cioè lo smitter ha indicatore fluorescente, c'ha. No, ho capito, c'ha due strumenti, c'ha il display con il digitale e poi c'è quello analogico, ne ha due, capito, ne ha due. Poi c'è frequenzimetro, a fianco del numero dei canali. Capito? Allora, capisci, l'RFG e il Mickey Gain, così. Qua c'è tutto qua. I filtri. È bello, sì, un filtro c'ha. Poi c'ha la ricerca automatica, canale emergenza e il tasto delle potenze. E la ricerca automatica, quando uno sta parlando se ne va sul canale dove sta parlando. No, Tosca che fa, mi sembra dopo 4-5 secondi si sposta di un canale. Tac, tac, tac. Ho capito, capito. No, già a me sta c'è un bel, è molto illuminato, bello. Che bello. Solo che. Adesso vediamo, se riesco a prendermi quello che devo prendere, questo non lo prendo. Ui! Io busco la staffa, ma lo metto sui mobili così per bellezza. Ma i coso, che colore sono? Arancioni o rosse le scritte? I numeri e quelle cose lì? Ah, il display delle luci frequenze è arancione. E i numeri sono neri, e mica sono rossi. Sì, allora forse l'ho visto nel catalogo, non so se sia lo stesso modello. Il coso digitale di traverso è scritto, cioè parte da piccolino a più grosso l'indicatore. Non ho capito. Lo strumento dello smitter, tu ce l'hai digitale, così è? No, se due digitale analogico. Sì, ma sto dicendo, in quello digitale ci sono dei rettangolini piccolini, no? Sì, sì. Perché nel catalogo ce ne sono un paio di questi, questo volevo vedere che modello, l'MB40 ha detto sì. Scappa. Non si va a trovare il furgone, forse lo trovo sicuro, qua si chiama col Midland. No, ti avevi il Midland con quello piccolino, ma il Mobicom era un doppio del Midland, così è. Diciamo che c'è un'altra cosa il Mobicom, c'è un'altra cosa roba. Il Midland c'ha volume, squelci, AMFM e il pomello per i canali, basta un altro, ci vuole tante cose, guarda, vedere. Comunque se c'è il catalogo dell'Inter credo dove ci dovrebbe essere, comunque mi sembra che sia del 95-96. Sì, è anche abbastanza recente, non è vecchissimo come apparato. No, già è nuovo, e capita graffiato, sicuramente lo telefono sul cane così buttato sul sedile, ma se lo rivernicio, è un nuovo, è nuovo, perché non è vecchio, ma se lo rivernicio, entra in fiammante, è nuovo. Gaffa, tu l'hai pagato tutto completo 30 euro, usci? Sì, ma non si dirà. Mi hanno detto, non hai tu 30 euro tu? 50. E cazzo, ma ti hanno dato il microfono e l'ha diventatore pure. Due microfoni, uno da baracchino, su o un altro, e poi un alimentatore che non ce l'ho più, che era da 2 ampere, non si è riannuta, era una tantone, mi sembra il vazio. Caffa. Era col... che c'era il coso del voltaggio, dai, e basta, c'era un foro di 126, per carità. Ho capito, ma le laterali però non le hai tu? No, ma è normale, praticamente, guarda, vabbè. Praticamente sono le torce frequenzimetro alla 48, non me lo siamo lì, dai. Solo che qua c'è i tasti di schiacciare, invece tu devi salire e scendere, c'è 4 tasti, giusto? Ma per girare i canali? No, qua ci sono le AM, FM, filtri e balle varie. Ah sì, quello è vero, carico gli interruttori a salire. No, ci sono i tasti di schiacci, sì. Niente, guarda se a proposito Roberto, se ce l'hai, guarda vedere cosa cavolo è questo DW, perché non capisco cosa è. DW, ma dove ce l'hai, nel Midland o nel Mobicom? No, nel Mobicom, mi dai, lascia la parte, il Mobicom, D, non T, D, domonossola, D, dindini, DW. Quando anche non c'è qualche sito, sicuramente è qualche sito, ma hai provato tu quando sto parlando io a vedere se cambia qualcosa? No, è un filtro, l'NB è il filtro. Questo di doppia V non so cosa fosse, cosa sia. Che non sarà un tasto di predisposizione, perché ci sono apparati che ti lasciano un tasto inutilizzato, per dire se vuoi mettere una modifica, non so, attaccarci un effetto eco, cosa del genere, un interruttore predisposto, molte volte capita così. No, qua me lo segna sul display, DW, mi segna tutto, AMFM, emergenza, poi il coso delle potenze, come ci hai detto del portatile. Aspetta un attimo, lo prendo il catalogo così, vedo vedere che cosa è questo modello, un secondino. Caba! Come si chiama il modello, Luca? Oh! Ma c'è scritto DW. Eia. Sai che cos'è? Dice monitoraggio automatico di 2 canali programmati. Cioè probabilmente ti puoi tenere 2 canali in contemporanea, come negli apparecchi HF, ascoltare 2 programmi in contemporanea. Ti metti l'altoparlante interno, li imposti quel canale, per esempio, per ascoltare il canale 15 o il canale 20, glieli imposti e te li puoi ascoltare in contemporanea. Non ho capito. Come faccio a impostarli? Come funziona dell'apparato, sempre che ce l'abbia in funzione questo tasto, perché molte volte varie sono predisposizione, varie in altre, perché per dire esiste il modello superiore che ce l'ha di serie, questo è un opzione, tipo come le macchine. Questo tasto serve per fare in modo di ascoltarti 2 canali in contemporanea, per dire con l'altoparlante del baracchino ti metti il canale 5, il 40 o di dove ti piace, poi ti metti un altoparlante esterno e ti ascolti il canale 5. Sicuro sì. Ma come faccio, scusa? Dove lo attaccavo a questo coso? Se attacco allo spinotto delle cuffie si sente solo l'antenna, la colonnina e basta, dove lo attaccare? Non lo so, qua c'è scritto DW vuol dire dual watch, monitoraggio automatico di 2 canali programmati, e nello stesso tasto c'è anche EMG, l'hai letto? No. No, nello stesso tasto c'è AMG. MG, quello è il canale di emergenza, accesso rapido ai canali di emergenza programmati, MG ce l'hai un tasto tu? Coppa. Quel tasto probabilmente ti puoi tenere memorizzato. uffici in contemporanea, però se c'è una trasmissione di emergenza, uno che sta parlando, probabilmente si comunica in automatico. Ma qua è... qua è canale 19, è canale 9. Aspetta, vediamo un po'. No, non fa niente, non è voce mentre c'è lo sdrobe. Assolutamente, c'è cioè, no, no. Non è possibile. No, non è come stai dicendo tu, Robbe. Poi. Cacchero che invece tu simile, lo penso. Allora, di nuovo, ma questo è il 490 Plus, non so se lo conosci. 490 Plus da Intel, no? È bellissimo, c'ha M1, M2, M3, M4. Memoria tu ne hai? No. Questo sotto c'ha 4 tasti, accensione, PA, SQL, poi c'è RF Gain e MK Gain, così è. SQL è lo squelch. Ma dico, c'hai 4 di questi potenziometri rotativi, ne hai sotto 4. E poi in grande a destra c'hai il controllo dei canali. Allora, io c'ho il volume, squelch, RF Gain, MK Gain. Poi c'ho tasto d'emergenza, EMG, come hai detto tu. Poi HILU, se la potenza è quella, AM, FM, poi c'è la ricerca automatica, questa DW, NB, basta, non altro. Comunque, quel tasto che stai dicendo tu, DW, significa Dual Watch, e ti dice monitoraggio automatico di due canali programmati. Ma è impossibile, Roberto, come cavolo fai? Ti spiegamolo tu come fai a ascoltare. Ascoltarmi il 10 e ascoltarmi il 5, come fai? Ma è un po' strano a me. Allora, bisogna vedere prima di tutto se ti può fare, se questa funzione funziona su tutti i canali, che non lo so io, perché ci sono apparati tipo quello che c'ha Claudio. Claudio c'ha apparecchi, HF, è l'uso che ne fa lui, è normale. Per dire, tutti voi stai parlando sul canale 10, allo stesso tempo, vabbè, loro lavorano su frequenze, su una frequenza diciamo, e si vuole ascoltare allo stesso tempo, monitorare un'altra frequenza per vedere se sta parlando qualcuno, eccetera, eccetera. Lui si imposta a questi due canali, uno parla e l'altro ascolta su un altro canale. No, c'è da dire che il tuo è possibile che funzioni in un altro modo, che funzioni solo sul canale di emergenza, come nella barca. Tu nel VHF Marini, ti tieni, o c'è per dire, stai parlando sul canale 10 e poi ti, in automatico, appena c'è una segnalazione di emergenza, te ne va sul canale di emergenza il 16. Magari tu lo fa solo sul 9, io questo non lo so. Sì, il mio fa solo sul 9. Invece a vedere un po'. Allora. Ti sei messo tu? Sul 15. Adesso prova a parlare. 15 io, Luca. No, aspetta. Hai parlato sul 10, come vai? Sì, adesso sono sul 10, adesso parlo sul 15, Luca. Prova a vedere se mi senti. Vai. Mi hai sentito, Luca? No, negativo. Ora bisogna capire come funziona. Però sicuramente funzionalmente è così. Già mi hai sentito che ti ha cambiato il canale, vuol dire che funziona su tutti i canali quel discorso lì. A meno che non ci vogliono due altoparlanti esterni. KK, non lo so. Ma con la Limmi. Vuol dire quando stai parlando, vuol dire 10 che mi voglio sentire a quello che sta parlando sul canale 10 e io sto parlando sul canale 5. Ma sono già dite roba. Poco fa si è spostato, adesso no. Dove sei tu adesso? Sempre sul 10, no? Beh, se mi senti sono sul 10. No, dico, non me l'hai messo con quello DW. Sono tutti e due sempre sul 10 o uno sul lato canale? No, sul 10. Tutti e due sul 10 sono. Tutti e due canali. Metti di... Cioè non è stata la prova, ti ha messo il 15. Capito roba, c'è Leone che sta parlando, l'ho detto? Con quel tasto inserito, dove sei, su che canale sei memorizzato? Sul 10. E mi hai detto che hai messo il 15 tu. Troppo da qui, a 15. Anche a 15. Quando premo se ne ritorna. Quando premi se ne ritorna al 10, così è. Hai parlato tutto se ne ritornato al 10. Praticamente funziona così, te lo dico io. Quando ti vuole inserito, magari se non c'è qua, se non c'è nessuno, un baracchino, no? Tu lo accendi e non posti su 15 per esempio, no? Magari se su 15 non c'è nessuno, come parla qualcuno se ne va al canale dove c'è gente. Ah, forse per quel motivo lì, ma vabbè, comunque è una funzione in più utile sicuramente. Ma adesso neanche gira adesso, aspetta. Qui prova a parlare. 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. No, l'ho fatto andare io, aspetta, eh. Non ricordo parlare, pronto, sì, aspetta. Devo spostare, aspetta un attimo, allora. Quando lui, dopo 2-3 secondi parla, pronto? 1, 2, 3, 30, 40, 50. No, se ne torna, quando parlo io se ne torna a 10, allucinante. Ma tu non ce l'hai di questo apparato? No, negativo. Praticamente funziona così, roba. Più o meno, eh. Io l'ho imposto, per esempio, no? Sul 10, parlo un esempio, sul 10, no? E se ci mettono il DW, cosa succede? Quando riceve il segnale si sposta da solo. Sì, va nel canale dove c'è il segnale, così. Dove c'è gente, sì. Ma fate se me ne sono accorta, aspetta. Torno a fare, aspetta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, adesso non lo fa. Luca, cosa ci avevamo usato? Il 15 e il 10 di canale. No, qua neanche uno. Mettiti tu, come si chiama, memorizzati il 15 e vai a parlare sul 15 tu. E poi ritorno io parlo sul 10, a vedere cosa succede. Ora. Luca, ci sei adesso, sono sul 10. Io sono sul 10. Ora non sono un altro, come fai tornato? Mi hai risposto sul 15 tu però. È perché c'è un altro baracchino sul 15. Tu le prove con questo resto, non stai facendo con lo stesso baracchino. Non so cosa vuoi fare, aspetta un attimo. Aspetta, vediamo un po'. 1, 2, 3, prova. Se ne va da solo, dai, da solo va sul 10. Praticamente lo devo disinserire, no? Mi sposto. Aspetta, adesso mi sposto. 1, 2, 3, prova. Ora, no, ho sbagliato. Allora, funziona così. Devo inserire questo DW e poi spostarmi al 15, no? Ok? Una volta che uno parla, ritorna solo al 10, mi aspetta, facciamo una prova. Pronto, sì, 2-3 secondi, non me ne provi tu, aspetta. 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Sì, sul 10 se ne è andato di nuovo, sì, è così, dai. Mi hai parlato tu, era sul 15, mi hai parlato tu, sei andato sul 10 di nuovo. Gappa. Ma ci deve essere qualche funzione per ascoltarli tutti e due in contemporanea, secondo me, i canali. Non so. Che per esempio, magari, se va a funzionare così, perché fa così, sta? Adesso l'ho disinserito, adesso lo inserisco il DW e mi sposto sul 20. Come parla, 1, 2, 3, veramente se ne torna al 10, se ne è tornato. Sembra una fesseria, ma già, non lo sapevo neanche, figurati. questi apparati, e questi sono giocattoli, figurati gli apparati, quelli HF che hanno delle cose che neanche ci immaginiamo. Infatti non c'è nessuno adesso. Aspettate. Non c'è nessuno, capito, non c'è nessuno. Ora, sono tornato, però come mai? Aspetta. 1, 2, 3, non è te, no, neanche. Ma Mario, non si è sentito, Mario, ci sei? 1, 2, 3, hola, ehi, hai sentito da solo. Praticamente devi inserire quel dito PV e spostarti di canale. Tu una volta che uno parla, se ne trova di nuovo, per dire, 10 o dove c'è gente, dai. Comunque glielo puoi impostare tu il canale, quel canale ti piace glielo metti tu. Sì, vabbè. Allora, vediamo un po'. E vabbè, sto parlando io. Adesso sono... Sono a 10. Ah, 5. Sì, sì, forse la logica. Come lo puoi mettere? Praticamente così, Mari, lo imposti sul 5 per esempio, no? Mari, se sul 5 non c'è nessuno, entra gente sul 20 per esempio, se si sposta da solo. E appunto te ne vai in automatico dove c'è il segnale, tu gli hai memorizzato il 5 e il 10, per dire il canale del camionista, il canale dove ci siamo noi, e lui appena sente uno parlare se ne va sul 10, oppure se ne va sul 5 dove c'è gente. No, non si memorizza niente, glielo fai tu, vabbè. Ah, si dice inserito, no? Poi inserisco la porta 40. Anzi a 40, vediamo un po', torno a 10 se ne è andato. Capito? Sì, cosa ti sto dicendo, tu gli imposti due canali, ecco, lui se ne va in automatico, per dire, se c'è gente sul 10, lui se ne va sul 10, se c'è gente su 40, se ne va su 40, e li ha memorizzati, non li hai messi tu i canali. No, aspetta. Allora, sei due, su. Allora, io posso fare così, no? Rimango in ascolto, per dire sono sul 5, avanza, ok? E li inserisco questo dito PV. Cosa succede? Ma se ti qua non c'è nessuno, come sente gente per dire sul 10, sul 40, su quel canale che ti piace, si sposta automaticamente. Ah, se ne va in qualunque canale, anche senza impostarlo tu. No, lo devi impostare tu, questo... Cazzo, vabbè, mamma mia, mi devenisci il Lucci. Allora, io, adesso ci siamo solo le due per esempio sul 10, no? Io me ne vado sul 5, ok? Con un apparato solo, questo canale se lo eliminiamo. Cosa succede? Su 5 non c'è nessuno, io imposto questo posto adesso, lo metto sul 5, su 5 non c'è nessuno, vai sul 30 c'è gente, puh, sposta da solo sul 30. Non sto dicendo così, ho detto così io. Cappa, funziona così. E c'è vabbè, allora inserisco, vediamo un po'. 1, 2, 3, sì, anche quando sono mai in altri canali, lo fa ugualmente. Ok, ma tu c'hai la parata accesa vicino, Luca? Capo. C'è l'antenna però. No, l'antenna, e se no come fa a provare? No, quello, allora uno sta parlando con me con l'antenna, e l'altro dove c'è il dipolo attaccato. Capo, ma sono staccato, sono brucio. Dimmi una cosa, non ti si crepa lo smitter con segnale così vicino forte quando parli tu? No, qua arriva 9, nel mobico arriva 9.25 al massimo, proprio perché sono vicini, se no al massimo il segnale che mi arriva a me è 9.10, è praticamente fondo scala. Certo, se devo chiudere una bambagliera mi faccio, mi sciolgo lo smitter. Oh Luca, io ti saluto che adesso devo andare a lavorare, ci sentiamo magari stasera. Saluto a tutti quelli che stanno ascoltando, alla prossima, ciao a tutti. Papa, ciao Roberto, alla prossima, ciao. Mi sento. Ehi, Gianni. Ah, guarda, Salvatore. di Galaxy Turbo, il stato greco Turbo, è quello che fa lui, e lui vuole 400 euro per cento che conta 100 watt in uscita. Ma che dire che dici? Buon lavoro, avanti già. Ciao, avanti Luca. fuori, non lo so, fatti uno fuori, comunque veramente forte, già. Andate, si sente la voce di Manuela? Poco. Poco, quindi non è come l'altro che prende il rumore sul profondo. No, no, lo sento più alto, proprio è a bomba la radio, è a bomba. Su 5 chili un po' come la situazione, comunque c'è bene veramente, è proprio bella spinta la radio, forte, chiara, è bella. Ciao, sia un apparato quello, eh. Vabbè, comunque, c'è bello, io sono contento. Tu lo devi vedere di notte, come illuminato lo sfondo nero degli strumenti e la luce si illumina, il giallo e il rosso, ma c'è anche bello. Ma non l'hai preso nuovo, no? Luca, è nuovo. Cioè, non è che a me la roba vecchia non è inviata. No, non è nuovo. Ma è nuovo lo stesso. Non c'è un grassetto, nulla. Proprio perfetto. No, molto. Guarda la mia verticca, non voglio far sapere che volimi agli altri. Vabbè. E comunque non è morto. Non è morto quanto un Galaxy. Vabbè, mi piace che tu sia contento. Ma che l'hai controllato bene, di lusso, funziona tutto alla perfezione, sì? Sì, l'abbiamo controllato tutto con Claudio, ho capito. L'ho controllato tutto con Claudio, siamo andati in mano, abbiamo girato, rigirato, tutto. Coppa. Perché mi stai dicendo così? Cosa ho fumato? Non c'è di tutti due, non c'è un biliardo, non c'è di un biliardo. No, due biliardo, no una, due. Sì, vabbè. Appunto perciò. Ma poi ci stibili un viso, è feo me. Vabbè. Cioè mi stai dicendo che sono un pollo. Sto dicendo che sia un pollo già. Non ti sto dicendo che sia un pollo, però cerca di stare attento. Cappa. Bisogna... Io vabbè anche ci sono ricascato nell'altro, quello che hai preso, per cui ti è arrivato tutto... disastrato dentro, ci sarei cascato pure io, per quel prezzo lì l'avrei preso pure io. Vabbè, non sai mai chi c'è dietro, capisci, l'ha fatto per far bene la cosa, addirittura in questo anno hanno detto che c'è cascato anche qualcuno dell'anno, figura di più. Infatti, va bene, va bene. Vabbè, adesso volevo vedere questa radio di Marco, vabbè. Io l'ho visto. Cioè, le stazionarie, le sue altre stazionarie praticamente rotondo invece che... Invece che essere praticamente quadrato, come tutti è rotondo. Ah, praticamente c'ha due strumenti allora. Cosa? Ha due strumenti? No, ne ha uno. Uno rotondo invece che quadrato. Ah, addirittura rotondo, calcolo. È particolare, perché è americana. Infatti gli ho chiesto se era omologato a Marco. E lui che ti dice? E lui mi dice che non si ricorda, che praticamente ha detto che se lui si ricorda che c'era la targhetta dietro. Sì, la targhetta magari anche per il fatto, per tutte queste cose qui la metto, il numero di sì. Ma lì regolabile sì già. No, no, 5 watt. E non si possono regolare di più. No, no. Sei poco d'acqua dall'interno, ma è 5 watt a fare. No, non è fera di toccare, non va bene così. Nero. Cosa? Nero. Nero? Sì. In che senso? Come è nero? No, è praticamente cromato avanti e ai lati il polegno. Tipo lui, è legno e finto legno nei coprire, praticamente è lo stesso colore del legno che riporta nei fianchi, però quello di sopra è disegnato, va. Già va bene allora. Praticamente è grande quanto un comodino, dai. Un po' più grande di lunghezza. Cavolo, non è che sul comodino ci sta. No. Ha preso com'è, 20 kg, 30 kg. Poi non l'appendicina ha preso. No, non è la forza, è l'appendicina. Già andava. Già va bene, cappa. Ehi, ehi, ma il macchinè c'è una maletta? Ah, il macchinè? Sì. Ma i segnali sono come quelli di prima oppure c'è qualche differenza, non so. No, i segnali sono smessi ad essere molto chiaro. Tu hai di nuovo una figura da... No, praticamente come il Mobicom. Che arriva Hanover qua, Franco, ma arriva Hanover. Franco Adriano. E gli altri no. Insomma, accade una volta, quasi non è arrivato. E a cui vanno per più 30. Che è davvero? Ui, ci prollo. Vabbè, no, vabbè, adesso siamo fissati, diciamo, dai. Vabbè, non sto facendo niente, a tu. In che senso? Di là. Io sto lavorando. Là stanno lavorando di tanto. No, lavorando stanno. E allora? Capo. Dunque, là dove hai fatto il presentivo, sono d'accordo, sono in otto, diciamo che sì, sono d'accordo, due no. Se la facciamo fare un altro? No, non per quello, no, non è perché è troppo alto. Come mai è? Qualcuno lì non ha soldi. Ma quello è lui, non parlerà in tutti, non solo di qualcuno che abita lì. Cappa, perché magari lui c'è d'accordo, la, gli avvocati sono d'accordo. E qualcuno non è d'accordo. Due mi sembra, due signore. Alla maggioranza è quella che conta. Ma fino a prima di là non c'è un comunino legale, già la maggioranza non conta niente. Faranno qualcosa, adesso siccome la maggioranza vince, adesso gli avvocati non so cosa devono fare, e vedono un po' la situazione. E poi al limite glielo fanno pagare diversamente, dove ti dica. E lì ci vuole Antu, no? Lì entra chiunque. L'altra volta hanno aperto il rubinetto e hanno allagato tutto sul portone. A pari due. Come fai una seconda di prova? Non freddi, vieni lì da terra. scritto. La brava me dice, fai lo tu da bravo, non io. Poi devo fin capo, c'è la tina. Qua c'è quel reme, mattina già a proposito. Guarda, non riuscivo a capire cosa era, se era un tedesco. Santiago Onofre. Stavo ascoltando, poi che mi stavo facendo un giro nei canali e mi blocco al canale 20. Questo qua, 9 più 10, non so se era un tedesco o cosa era, allucinante, l'ho chiamato, però no. Detto se ascoltava l'Italia. E poi piano piano è sparito, 9 più 10. Ciao Carino, hai finito? tu mi sei dire cosa è questo del Mobicon, DW, cosa è? Io ho fatto delle prove ma non mi funziona. Praticamente, allora io lo inserisco, no? Aspetta, mi sposto sul 15, 1, 2, 3, ma non lo fanno perché non c'è, ah sì, e se ne ritorna sul 10, come vai? Il doppio ascolto è... C'è doppio ascolto? Però ho fatto i timuti, però come faccio a capire l'affarlo funzionale? Allora tu vuoi ascoltare il 10, no? Metti sul 10 e schiacci il DW, poi te ne fai sul 20, se entra qualcuno sul 10, fatti ti appare subito, ti appare subito il 10 che ti stava, che c'è gente lì. È un canale monitor, il doppio ascolto, là. Come può essere il vuotetto marino, che tu lo metti sul 16, no, quello lì, e tu te ne vai a parlare da un'altra parte. Se nel canale di emergenza entra qualcuno, tu lo senti, capisci? No, funziona praticamente, non c'è gente, si sposta da solo. E beh. Scappa, infatti aspetta. Vediamo un po'. Se inserisco, mi sposta a 40. 1, 2, 3. Sì, se ne va sul 10. Però lo fa solo sul 10 in realtà lì. Vattene sul 15, no, io parlo qua, ti faccio vedere che ci sono io, perché se mi rimane sul 10. Metti lo squelcio a metà. Metti e poi passi sul 15. No, lo squelcio non è a questo, io non so dove c'è la camera, ecco. LDPG, abbassa il segnale con l'LDPG. Cosa devo fare? Rispiegalo, devo passare sul 15 con il baracchino con questo giornale adesso? Il Mobicon c'ha adesso? No, il Midland. Quando c'è il Mobicon lo devi fare, no? Metti il segnale, a me mi porti a... questo poco che mi puoi portare, non ti per dire che arrivo a 9, no? Mi porti a 2, a 3, no? E poi passi sul 15 lì. Se io sblocco lo squelchio, praticamente mi dovresti sentire lo stesso. Capito? Perché ti appare il canale 10, che sto parlando io, no? Col video più a E allora, per esempio, io sono sul 10, no? Aspetta, qua faccio un casino, non capisco un tubo. Io sono sul 10, inserisco il DW, lo inserisco su, te ne vai sul 15, parli e parli direttamente sul 15, così è. No, se tu sulla stazione che vuoi sentire la devi memorizzare prima, nel senso tu vuoi sentire quelli che sono sul 5, vai sul 5, no, schiacci W e poi te ne vai sul 10 a parlare, se entra qualcuno sul 5 lo sento. No, io non faccio un trucco qua. No, io vado diversamente qua, io allora praticamente no, sono sul 10, passo non c'è antenna, ma entro lo stesso, schiaccio DW, me ne vado sul 5, faccio un passaggio, 1, 2, 3, ecco se ne trovate sul 10. No, se ne trova sul 10 se c'è qualcuno, se non c'è nessuno non se ne va sul 10. Ma bello! Così è alto, così funziona. Ma poi un po' mi ammazzendi, ma... Questo gallo di lacchi, di microfono. E che canale è Pomponi? Quello su 14 mi pare. Se tu avevi il modifico, lo mettevi su 14 e poi te ne venivi sul 10 a parlare. Se entrava qualcuno, andava automaticamente su 14 la tariffa. Ma il canale rimane 14 però. No, rimane 10 se non c'è nessuno. Se tu stai parlando sul 10 e su 14 non c'è nessuno. Rimane 10. Se entra qualcuno ti appare il canale 14 e quello che sta parlando sul canale 14. Per lo meno dovrebbe essere così. No, Natali, non ci siamo. Non ci siamo. Allora, te lo spiego. Allora, io inserisco il dito più il dito più W, no? E me ne vado su 5. Cosa succede? Adesso, per esempio, io sto parlando, no? C'ho attaccato, attaccato adesso il Mobicon. Posso trasmettere un Midland? Quando io lo mando là, automaticamente lo faccio un passaggio, tu se ne torna sul 10. Aspetta un attimo che attacco il Mobicon, perché lo vediamo subito cosa va. Prova, e poi me lo spieghi, là. Da me fa così, anzi lo faccio così, guarda. Inserisco, me ne vado su 14, vediamo un po'. 1, 2, 3, se ne torna sul 10. Se ne può telefona sul 10, se non sta parlando nessuno. Ci sono io sul 10 volando, ora mi comprendi? No, asco, rifaccio, vado. No, inserito, mi sposto sul 14, sul 15, avanza. Faccio un passaggio, mi torna sul 10. Aspetta un attimo, forse non siamo compresi, quello di cui io già va. Aspetta un attimo che attacco il musico. Vai, va. Siamo sui piedi due, tu. Perché Roberto mi stava dicendo che ascolti due canali assieme. Ma si tomba un po' gustrano. Però si deve mettere attenzione su un canale e sull'altro. Se lui mi salta da un canale all'altro. È quello che voglio dire a Natalino. Invece lui mi ha detto che ha ascoltato due persone contemporaneamente. Ma Marco, tu come ti fai a ascoltare due canali contemporaneamente? Tu puoi parlare, tu dici, se parlo su 10, automaticamente se sul 15, sul 20, non me l'hai portato tu qua a qualcuno, eh? Lui si aveva impostato su quel canale. Ma è portato sul 15, no? Il passato lo mettono pure a portare su. Per esempio io ce l'ho postato sul 10, ok? Io mi sto ascoltando adesso. Io schiaccio la mano in posto sul 20, e beh, se sei, non c'è niente quella solo. E che gente, sul 20 ti apre lo squadro, sì, e ti fa sentire quelli che sono sul 20. Allora tu sotto sul 10 trasmetti. Ecco come funziona. Dice di tutti. Vabbè, non ci finisce. Pari basta, comprende, io vado diversamente, perché io a solo il posto e metto il dito più o meno, mi sposto sul 5, faccio un passo di più e se ne torno sul 10. Quel dito più o meno, doppia recessione, capisco? Eia. Ma non che tu ascolti due anni come contemporaneamente, dimmi tu come sono un ragazzo intelligente, come sempre, io penso che sono un ragazzo intelligente, mi spieghi come si può riuscire a ascoltare due anni in un altro tempo? Così Roberto stava leggendo nel, come si chiama, in quei giornali, dai. Sì, ascolti quel canale, ma non si seguì assieme, cosa ne comprendi? Prima di tutto se l'apparecchio o riceve se la frequenza riceve su un'altra, quindi la frequenza assieme non la può ricevere. Ma poi, in conseguenza, anche se l'avesse potuto fare un esempio, di quelli tutto russici, come fai tu a sentire due frequenze assieme? Gianni che parla con me e sul 15 la farina che parla con Claudio. Infatti, ma alla funzione così tanto, io lo imposto sul 20, posso trasmetterlo sul 10, così è. Allora, ti spiego per sempre, per esempio, tu sei abituato a parlare sul canale 20 con i tuoi amici, ti spiego? Sì. Tu posti sul canale 20, e infatti potrebbe andare sul 5 se parlano a qualcuno. Come entra qualcuno sul 20, lui ti apre lo specchio e ti dice, sul 20 c'è gente. Allora di conseguenza cosa fai? Ti scusi sul 20 e fai sul 20? Ma io ho fatto le prove di vendita, io l'ho messo, l'ho impostato sul 5, ok? Sul 5, l'ho impostato, poi faccio un passaggio io, tu sei andato sul 10 di nuovo. Ma non male, perché sei tu che stai parlando, se tu potete andare a stazione, sei tu che lo comandi. No, con l'altro baracchino. Ma non male, stanno a ricercare sul 10, tu fatemi sul 20. Ma aspetta, c'è il dipolo, aspetta, Ma vedi che mi vuoi, già riprende. Vabbè. Ah, è semplicissimo, capito? Non si può trasmettere il canale insieme, se no ti ascolti sopra modulatore, non comprendi un altro, né di uno né di l'altro. Ma aspetta, a parte il fatto che non è possibile, questa teoria, ma non sarebbe possibile neanche in pratica ascoltare due persone che fanno assieme con altre due che fanno su un altro canale, cosa ne comprende? E poi, la parata se vede un canale alla volta, non è che... E voi siete stati in quarta.